pietra na vogliere come tempo po arruffa tutte colori in da via e gira pa città e vaga a cercare occhio come oliva nero che guarda senza parlare, terra che non va a dormire e non va a cagnare, terra tua brucia né parola, niente che non ne può studiare, voglio tornare. Ci accusi per chi vede.